suonare del jazz, del jazz, del jazz. Ti prego non fare del jazz, del jazz, del jazz. No jazz, no jazz. Questa sera, questa sera. No jazz, no jazz. Per favore, ho nel cuore un ricordo d'amore che mi fa soffrire così. No jazz, è un tormento. No jazz, è un rimpianto. Sogna l'anima stanca il ritorno di chi mi lasciò. Musica dolce tu, musica mia. Musica dolce del cuore. Scendi nel cuore, dimmi che posso andare. Spera, no jazz, questa sera, no jazz, per favore, voglio illudermi ancora di vivere e amare come allora. No jazz, no jazz, no jazz. Questa sera, no jazz, per favore, voglio illudermi ancora di vivere e amare come allora. No jazz, no jazz, no jazz. No jazz.